Hardcore. Buonasera a tutti cari amici di Sbarialli, siamo qui in navigazione controllata sulle rotte più oscure della galassia e abbiamo in collegamento dal pianeta Terra, ormai per lo più in quarantenato, un caro amico di una band molto famosa nel panorama alternative italiano, una band che più conosceranno, gli Stormo. Magari. Benvenuto Luca, innanzitutto volevo chiederti appunto chi sei, cosa fai. Ciao ragazzi. E bella, di raccontarti. Ciao, un attimo. Luca. E allora, beh, cosa faccio? Faccio ben poche... mi dicono che non posso dire parolacce perché c'è un bambino vicino, scusatemi. E, cosa faccio? Ora come ora non faccio granché della mia vita. Strillo ogni tanto all'isola, provo a strillare all'isola giusto per tenermi in allenamento, in solitaria, fingendo di avere degli impegni seri. Di solito facevo il barista, ma ho dovuto smettere, il che va anche abbastanza bene per la mia salute, devo dire, però magari rinizio tra qualche giorno e direi che si conclude qui, insomma. E, appunto, a noi in primis ci interessa comunque il tuo lavoro artistico. Lavoro artistico è un parolone molto grande, credo, cioè ci emozioniamo quasi, ecco, diciamo che cerchiamo di divertirci come possiamo finché ce la facciamo da un po' di anni ormai e si finisce lì, insomma, non abbiamo grandi pretese, no? Ci divertiamo noi, vi divertite voi e siamo tutti contenti e torniamo a casa sorridenti, giusto? Sì. Per me si finisce un po' lì il lavoro artistico. Che comunque è già un buon risultato, sia se l'artista si diverte e anche il pubblico, diciamo, è divertito da come si diverte l'artista, è già un bel obiettivo e secondo me un buon risultato a livello artistico. Esatto, secondo me abbiamo fatto quel che dovevamo fare e non è mica facile alla fine, però... si prova. Dico, soprattutto poi nel tuo genere, dove sul palco vi muovete molto e diciamo è molto vivo il live e... beh sì, è per quello che ho specificato prima, che finché riusciamo, perché non è detto che ce la fai per molti anni, insomma, soprattutto se non hai uno stile di vita proprio sportivo, ecco, mettiamola così, quindi uno fa quel che può e cerca, insomma, di venirne fuori ogni sera, ecco. Sì, sì, esatto, capito. Per il golfiatone, senti tutte le paglie, insomma. Live fast, com'è che si dice? Ma bisogna essere bravi però a fare i pezzi da 10 secondi, sennò vengono da merda. Beh, però se li fai molto molto veloci gli altri non però capiscono. Sì, più o meno quella è l'idea, dai, diciamo. Beh, i Napalm Death lo facevano, quindi dai. Anche i cosi, gli Agoraphobic Noiseblade, cos'è? Quel gruppo e quel pezzo, quel brano, quel disco da 99 brani che dura tipo 20 minuti. Sì, esatto, esattamente. Ti tiri 20 minuti che bruci tipo 15.000 calorie, però poi finisce in fretta. Sì. E a proposito di Agoraphobic Noiseblade, che sono una band, io ti volevo chiedere... Poi basta. Una bella band fast, perché non ci parli un po' anche della tua band fast, di cui abbiamo parlato finora tra le righe, che sono appunto... di Stormo, giusto? Yes, cosa devo dirti riguardo a noi quattro scapestrati? Cosa vuoi sapere? Ci interessa proprio sapere qualcosa di voi quattro scapestrati, cioè chi sono, chi siete poi? e come siete nati. Che a noi di Svariali interessa particolarmente, come a tutti i nostri radioascoltatori. Ma le origini e le discendenze, ho capito, esatto. È una cosa un po' familiare. Guarda, siamo nati tanti anni fa, quando eravamo dei giovincelli, dei adolescenti in un piccolo paesino della provincia di Belluno, con molti pochi intrattenimenti, come puoi immaginare, perché le Dolomiti sono tanto belle, però dopo un po' che cammini ti rompi anche i coglioni, fondamentalmente, no? E quindi ci siamo trovati in quattro a fare degli urletti e del casino in una stanzina, senza troppe grandi aspirazioni e prospettive. Poi man mano, un passetto dietro l'altro, le cose sono andate molto meglio di come ce le aspettavamo, e quindi ci siamo riusciti a fare dei tour, ci siamo riusciti a fare tanti concerti, ci siamo riusciti a fare tanti dischi. Bello lì, però è diventata una cosa un po' che si sostiene da sola, no? Che va avanti perché... Dimmi. No, continua pure, poi ti dicono... No, era semplicemente per dire che io mi ricordo quando uscì penso il vostro primo disco, quello per dischi brevisti, sì. Cos'era? Il 2014, può essere? Sì. Io mi ricordo che almeno, sì, personalmente... Tra l'altro, sì, era il 2014, sì. Io mi ricordo, sì, che all'epoca hardcore, scrimo, non ascoltavo tantissimo. Però mi ricordo che per caso sentii il vostro disco, perché seguivo molto Bologna Violenta, e cioè seguivo su Facebook così, e vedevo le uscite che stava producendo così. Quando usciste poi voi Stormo, a me personalmente mi colpì tantissimo, perché era qualcosa che a livello anche di suono era qualcosa che non si sentiva molto, almeno mi ricordo all'epoca non avevo sentito niente di quel tipo lì. Cioè, a livello sia tecnico che anche di composizione. Quindi direi, va bene, facevate strimpellavate, ma direi che strimpellavate molto bene. Cioè, parlo proprio da fan. Io venni a sentirvi al Freak Out e mi ricordo un concerto della Madonna nel 2014. Beh, grazie. E poi anche a livello di palco, cazzo, mi ricordo che poi, ma una cosa che ne parlavo poi, che anche te mi ricordo che tenevi il palco, beh, veramente bene. E adesso non lo sto facendo per sviolinare, cioè assolutamente proprio. Quindi io direi, perché dopo ci piacerebbe approfondire anche un po' il discorso di, visto che tu hai citato Belluno, Dolomiti e provincia, ci piacerebbe approfondire un po' questa parte. Però io manderei prima un brano, ti va? Che dici? Manderei un brano del vostro primo album, che si chiamava, Luca? Si chiamava Sospesi nel vuoto, bruceremo in un attimo, il cerchio sarà chiuso. E poi abbiamo imparato che i titoli è meglio farli corti. Beh, però mi ricordo che all'epoca non ascoltavo scrivo, ma ascoltavo metalcore. I titoli lunghi andavano molto di moda, mi ricordo. Anche i nomi lunghi, a me piacevano, erano molto romantici. Però dai, manderei da questo disco un brano dal titolo molto corto. Sì, è vero. Che è Supernova. È vero. Quindi Stormo, Supernova. Peso del pe- Allora, abbiamo quindi detto da dove venite, da Belluno, che notoriamente, insomma, non una metropoli, e che immagino, poi correggimi se sbaglio, insomma, non è un centro nevralgico per generi come l'hardcore, il punk o lo scream. E quindi vi volevo chiedere quanto questa realtà di provincia abbia, questo rapporto con la provincia abbia influenzato il vostro approccio con la musica e con la vostra esperienza. Beh, guarda, in realtà quando eravamo ragazzini non era malissimo come realtà musicale, paradossalmente, perché c'era una piccola sala prove comunale, un centro sociale che si chiamava Magazzini Prensili, che faceva roba principalmente indirizzata su questi generi qua, e c'erano un botto di band di ragazzetti come noi che andavano dal grunge a chi faceva più death metal, robe un po' così molto, molto estreme, e però cioè funzionava, c'era una realtà giovanile, diciamo, che si muoveva intorno a queste cose qui, era molto figo. E infatti poi noi quattro suonavamo, prima di suonare negli Storm, suonavamo in delle altre piccole band, chi faceva punk, chi faceva delle altre robette così, e ci siamo poi riuniti in Storm, quindi è stato un ambiente carino in cui crescere da giovincelli, appunto, anche la possibilità di avere in un paesino come Feltre un centro sociale che ti fa dei concerti di questo stile non è una roba scontata, e sicuramente ci ha influenzato molto, ecco, perché c'era tipo una finestrella sulle realtà più grandi che immaginavi nelle grandi città, o che immaginavi appunto a Bologna, e dicevi, wow, come sarà Bologna, c'erano queste piccole finestrelle che te lo facevano un po' intendere, quindi ti davano un po' degli stimoli. Magari faccio una domanda un po' così, un po' romantica, però la faccio. Romantica nel senso del, come si dice, romanzato del termine. Cioè, tu prima parlavi delle Dolomiti, comunque questo ambiente è abbastanza montanaro. E io ti chiedo, tutto l'habitat legato anche al naturalistico, quindi le montagne, eccetera, eccetera, hanno in qualche modo influenzato la vostra musica o non c'entra assolutamente nulla? Le influenze arrivano da un panorama completamente esterno che arrivava comunque a Feltre attraverso la musica che passava dai centri sociali o magari dalla musica che ascoltavate voi in quanto gruppo? Ma secondo me sì, secondo me l'hanno influenzato non nella maniera poetica che dici tu della montagna dura e cattiva, ma più nel perché essendo un paesino di montagna appunto non c'erano molti svaghi, quindi cioè noi stavamo... Esatto, noi stavamo in saletta a suonare e poi andavi a bere al bar come tutti gli altri, però prima stavi in saletta a suonare perché ti gasava quello e ti buttavi su quello, insomma. E essere tutti di lì, tutti del paesino, ha fatto più che altro, ha fatto un po' da collante, credo, inizialmente, ci ha fatto compattare insieme perché ci conoscevamo da un sacco, comunque passavamo sempre un sacco di tempo insieme, fin da bambinetti, e quindi... Ha influito più come ambiente sociale che come ambiente paesaggistico, credo. Ok, sì, come focus, cioè ti dà la possibilità di essere tutti concentrati su quella cosa lì. Esatto. No, volevo fare poi anche un appunto, perché dall'intervista che stiamo facendo un po' è curioso come stia venendo fuori, come spesso la provincia uno se le immagina come un posto dove non ci sono possibilità artistiche o comunque c'è sicuramente meno apertura generale rispetto a nuove sonorità o nuovi movimenti, ma poi in realtà alla fine ha un effetto contrario, perché la gente, non sapendo cosa fare, invece ha questo grande valore che è quello di far stare tutti insieme, creare un linguaggio che poi dopo, crescendo con l'età, si tenterà un po' di portare. Se non cadi nella foglia, eh? O nell'arrampicata. Se non cadi brutte cose, non fatele. Boh, direi quindi di lanciare un pezzo e dopo questo appunto di molti importanti. Vai con Occimino. Let me breathe. Ok, bene Luca, quindi dopo questo brano, dato che abbiamo parlato un po' del cinema, cioè della un po' in periferia, una piccolo medio città come può essere Belluno, parlaci un po' del dopo, quindi del percorso da Belluno a Bologna, comunque da Belluno a diventare comunque una delle band più importanti nel panorama hardcore italiano. Ma guarda, io la vedo un po' come una cosa che è una parte molto importante della vita di noi quattro, che ha seguito il suo corso come tutto il resto, quindi dalla cittadina ti sposti magari per studiare o per lavorare o per fare altro e pian pianino cerchi di far crescere le cose a cui tieni, cerchi di farle crescere insieme a te, quindi un passettino alla volta provi a fare un disco magari aggiustando le cose che non ti erano piaciute di quello prima, magari cresci sotto certi aspetti che poi si ritrovano in come scrivi la musica, in come scrivi i testi, in come li metti insieme, in come suoni insieme, fai esperienza sul palco e quindi ti porti dietro tutti i vari pezzettini che compongono la storiella e un passetto alla volta da qualche parte arrivi. Non è tanto secondo me il fatto di puntare ad arrivare a diventare una band così o una band cosà, ma più che altro è un percorso che è molto fedele alle nostre quattro vite che si mischiano insieme, stanno sempre riunite più o meno in questa band che va avanti insieme a noi. E infatti c'è chi ha pisciato la band, chi è uscito, chi è entrato di nuovo, sono cambiate le cose. Quindi sì, più che un percorso come band, io vedo un percorso di noi quattro che diventiamo grandi insieme, più o meno, è un po' più sì, così. Certo, quindi tu mi dici che non è tanto importante la città, né il posto, ma più che altro il posto che diciamo crescere assieme, anche da un punto di vista musicale, ma immagino anche da un punto di vista di vita. Ma credo che tutti e quattro noi abbiamo sempre vissuto il fatto di suonare la musica come una cosa principalmente essenzialmente per noi, che facevamo per necessità nostra e che poi ovviamente porti anche fuori, metti anche, fai vedere anche agli altri, a un pubblico esterno, però rimane un'esigenza molto, molto intima e personale, credo, quindi quello che il riscontro esterno va forse un po' in secondo piano rispetto alla soddisfazione, alle possibilità di comunicazione tue proprie, ecco, direi. Io direi che possiamo ascoltare un altro brano. Sì. E poi le domande bastarde, direi di ascoltare Vetro. Yes. Molto bene. Adesso in verità le domande non è che diventano poi molto più bastarde, però anzi diventano degli svarioni che ci siamo fatti noi dell'equipaggio riguardo alle tue, alle vostre influenze. Ora ti spiego subito il perché. Allora, ascoltando la vostra musica, faccio un esempio. Mi assumo la responsabilità dello svarione, quindi le cazzate che sto per dire, se vuoi, sai con chi prendertela. Ascoltando la vostra musica, faccio un esempio, tipo il brano Tempi Morti, ho ritrovato personalmente delle analogie con alcuni gruppi americani, come possono essere i Retox, che sono una band capitanata da Justin Pearson, che comunque, quando si parla anche di grind e hardcore, una seconda scena che è nata negli Stati Uniti, se nella prima erano i Napalm Death, dopo è arrivata comunque una seconda ondata, è uno degli emblemi di questa seconda scena. Dimmi, correggimi se sto sbagliando. Quindi la prima domanda di questo svarione e blastato è: se in America tutta la scena hardcore si è sviluppata soprattutto in California, e si sa che comunque la scena americana ha comunque preso dalla scena italiana, c'è stato comunque uno scambio reciproco di informazioni, e in Italia tutto invece il blast fervore arriva fondamentalmente dall'Italia del nord, e non c'è campanilismo in questo, perché l'Emilia Romagna non c'entra un cazzo in questa storia. E se pensiamo tipo a Torino con Negazione, o i cosi in Erorgasmo, se non sbaglio, anche gli Arturo, i Cripple Buster da Asti, o Attrito da Trento. Secondo te, domanda così proprio secca, c'è una motivazione perché si sviluppa una scena così forte in Italia, soprattutto nel nord Italia, okay, e escludendo il discorso dello Sturm und Drang delle Alpi? Allora, secondo me c'è un fatto, in Italia c'è una questione un po' particolare per cui suonare fuori non è facilissimo già di per sé, e più in giù vai, probabilmente più a sud vai, più si fa fatica a uscire fuori dall'Italia, a poter fare, ma per un fatto molto materiale, che sei una band di, non lo so, di Bari, per suonare già a Milano è come per noi da Feltre andare a suonare a Berlino, quindi ci sono delle difficoltà logistiche forse partendo dal sud Italia, che sono abbastanza importanti per come è fatto il paese fondamentalmente, no? E tuttavia io credo, ho visto soprattutto negli ultimi anni, da quando abbiamo iniziato a suonare un po' più seriamente in giro, che nel sud adesso come adesso ci sono realtà molto molto molto valide, molto molto fighe, e che fanno dei lavori molto belli, sia a livello di come, non lo so, di come producono la musica, dei concerti che organizzano, delle realtà che gestiscono, delle band che nascono da queste realtà. E quindi non lo so, sicuramente a Torino c'è stata quella roba di Negazione, di Nerorgasmo, che ha fatto un pezzo di storia, e però non lo so, magari ci sono cose più a sud che non conosciamo altrettanto bene, che però hanno lo stesso valore, perché non lo so, andandoci a suonare, come ti ho detto, io ho trovato nel sud dell'Italia realtà veramente molto molto interessanti, e quindi e magari non andandoci, non avendo la possibilità di suonare, non l'ho mai conosciuto, capito? Quindi certo, sì, stavo pensando adesso che potrebbe essere semplicemente ignoranza anche mia, nel momento in cui appunto, essendo ovviamente Bologna una città più a nord, conosci magari le cose che stanno più intorno a te e non conosci tutto quello che magari sta più lontano. Pensavo mentre stavi parlando, per quanto non c'entra molto con Scream Hardcore, però tutta la vicenda di Steve Albini e gli Uzeda, che si narra, aneddoto, che gli Uzeda sono una band di Catania effettivamente. Adesso esatto, esatto. Si narra che Steve Albini lasciò i Nirvana durante la registrazione di In Utero per andare a produrre gli Uzeda a Catania. Questo è l'aneddoto, quindi effettivamente quello che dici ha molto senso. Mm-hmm. E la seconda domanda di questo blast svarione è: ci interesserebbe sapere quali sono i tuoi, ma anche i vostri come band, riferimenti, se ci sono, musicali italiani, europei, mondiali, terrestri, della galassia, di Giove, di dove vuoi. Se ci sono, se c'è anche un nome, qualcuno. Galassia. tipo i gestisti di Star Wars. Esatto. Beh, quelli sono fantastici, devo dire. E hanno insegnato loro. Boh, faccio un po' fatica a dire, guarda, noi quattro abbiamo, credo, influenze musicali e percorsi musicali a livello di ascolti abbastanza differenti. Ti basti pensare che il nostro bassista, ad esempio, fa Noise, ha un progetto parallelo Noise, è molto incentrato su quella roba lì, mentre il nostro batterista, fortunatamente, è l'unico che è un musicista vero, è uno che studia la musica, tipo, quindi sì, abbiamo percorsi musicali molto differenti. Io sono sempre stato molto, molto legato, per quanto riguarda l'Italia, sono cresciuto un po', diciamo, con tutta la questione dello screamo forlivese, dai La Quiete, ai Rain, ai fantastici Riviera odierni, che abbiamo la fortuna di essere anche amici, oltre che ottime band da ascoltare. E in Europa, non lo so, ci sono tante cose molto diverse che mi piacciono. Sono sempre stato molto affezionato a tutto quello che hanno fatto quelli che si chiamarono alpinisti inizialmente, poi Jungblut, adesso si chiamano Criminal Body, direi, che sono tre ragazzi molto simpatici e molto bravi, che hanno avviato queste tre band estremamente diverse fra loro, ma tutte e tre assolutamente validissime, e mi è sempre piaciuto molto, oltre che la musica che proponevano, anche l'approccio molto super DIY, molto, molto onesto, molto incentrato proprio alla musica in sé, al live in sé, alla non commercializzazione assoluta di tutto quello che facevano, e li ho sempre apprezzati molto. E per quanto riguarda il fuori, non lo so, abbiamo avuto la fortuna di conoscere delle realtà molto fighe, ad esempio gli Old Soul, che adesso si chiamano Nibowin, dal Michigan da Chicago, secondo me sono una band validissima, di grandi amiconi anche loro, e avevamo in programma in questi mesi, che purtroppo non si realizzerà, un tour con altre band, invece con una band della Florida che si chiamano Gillian Carter, che anche loro fanno scream e sono molto fighi. Abbiamo conosciuto in via telematica, per ora purtroppo, sempre gli Infant Island, che anche loro sono americani, sono estremamente validi. E quindi sì, stavo dicendo che, insomma, la cosa bella di questo tipo di musica è che ti permette di entrare in contatto con un sacco di realtà di cui non conosci l'esistenza, e che in qualche modo fa anche stringere dei rapporti con loro che vanno al di là della musica stessa, e che ti fanno progredire sia come progetto musicale, come band, ma anche personalmente, ti arricchiscono molto. E quindi sì, è molto figo avere tutte queste influenze, della possibilità di fare esperienze di così tante band differenti che magari in altri contesti e situazioni non verresti a conoscere, ecco. Ok, certo, diventa una situazione di influenze, ma comunque anche condivisione. Molto interessante questa cosa qua. Allora io direi, mandiamo, visto che abbiamo citato prima questo brano, mandiamo, direi, Tempi Morti dal vostro disco Finisterre. Grazie. We'll be right back. Allora, bene, gran pezzone, parliamo un po' dei testi. Allora, prima di tutto volevamo sapere se i testi è una roba che scrivi tu, una roba che scrivete tutti assieme, che magari una volta arrivano da qualcuno, da qualcun altro, ecco. No, io ho fatto il paroliere. Tu sei il paroliere. Esatto. Perfetto. Allora, perché i testi, discutavamo fra noi della navicella, che comunque a volte vanno anche, diciamo, un po', non oserei dire contro al genere musicale, però magari uno non si aspetta, ecco. Luca, che dici tu? Ma guarda, no, secondo me, io questo video di scrivere in seconda persona, che perché mi piace, e quindi quello a volte può confondere, dare un'aura un po' eccessivamente romantica, se vogliamo, sì. E anche se magari inizialmente dei pezzi andando in seconda persona e poi ci rimetto io in seconda persona appositamente perché è piaciuto farlo così, e perché mi sembra siano anche un po' più diretti quando nel momento in cui tu li leggi, no? Perché se sono in seconda persona sembra che stia parlando a te in prima, e quindi magari ti arriva qualcosa in più. E le tematiche trattate, non lo so, sono molto differenti, variano davvero tanto. Quel dato che non ho dato prima, Ho Chi Minh, è scritto a Ho Chi Minh e parla della città, per me, delle persone di quella città, di come ho vissuto in quella città, di un ambiente totalmente differente dal mio, delle difficoltà di quella città, e magari a te una roba totalmente diversa, e va benissimo così. A me piace anche che ci possa essere una libera interpretazione, no? Certo. Quello che scrivo, che ci sono, quello che dicono gli Stormo, e ha un'interpretazione univoca, ma che uno possa poi andare a ritrovare qualcosa che fa parte di sé, ecco. E boh, l'ultimo disco è molto incentrato sulla città, almeno per me, quando me lo rileggo io, quando lo riascolto io, lo vedo molto incentrato sul rapporto tra uomo e città, cosa fa l'una e cosa fa l'uno all'altro, e magari per te è totalmente diverso, e boh, bene così, insomma. Sì. Vedo... No, questa è una gran figata, cioè, soprattutto il fatto che, come dici te, appunto, ognuno ti può vedere quello che vuole, un po' questa è una cosa che ritorna sempre nell'arte in generale, diciamo, che poi magari nella musica questa volta viene meno, però comunque secondo me è molto importante e figo quello che ci hai appena detto. Ho riscontrato anche molto, tranne magari alcune volte, che comunque i testi sono anche come fossero tipo dei mantra, no? E che si ripetono durante la canzone, anche abbastanza brevi, non tutti. E sì, poi appunto, magari io ci leggo, non lo so, parole d'amore, come appunto te dici, invece magari non c'entra proprio un cazzo quello che avevi in mente te, però è una figata che sia proprio così, che ognuno ci veda quello che vuole, ecco. Ma sì, più lascio libertà di interpretazione, meglio è, secondo me. E poi se vuoi sapere qualcosa nello specifico, puoi sempre chiederlo, no? E la questione delle ripetizioni, beh, sì, diciamo che è nata un po' di picchi di forma virtù, come diceva il tuo andare in amico, no? Nel senso che io sempre ho scritto robe molto corte, non mi piace scrivere cose lunghe, quindi quando il pezzo dura 2 minuti, comunque qualcosa devi ripetere, no? Per starci dentro. E poi man mano, da necessità, è diventata anche quella una cosa che mi piace fare, che mi piace vedere come vai, come le parole spesso. E quindi è andata un po' da sola, però la teniamo, dai, la teniamo. Che dite? Mandiamo un bel pezzone? Cioè, io propongo Metropoli, voi che dite? Bomba! We'll be right back. Ok, molto bene, molto bene. E, c'è un'altra domanda, sempre ricollegandoci al discorso che avevo iniziato prima su gruppi vari ed eventuali che ci interessa farti. Allora, partendo da un gruppo che sono un gruppo molto importante, penso, per molti gruppi, sia punk hardcore che hardcore, americani, italiani, inglesi, eccetera, eccetera, che sono i Cress, che sono un gruppo sicuramente icona per quanto riguarda tutta quella filosofia do it yourself. Se pensiamo anche alla loro celebre frase not authority but yourself, comunque la filosofia dei Cress è una filosofia estremamente costruttiva dal punto di vista di fare attraverso la produzione dal basso. E sapendo anche che tu fai parte del laboratorio L'Isola, quindi sicuramente può essere vicino ad un pensiero di autoproduzione e di produzione dal basso, ti volevamo chiedere se questo pensiero filosofico, tra virgolette, lo possiamo associare al gruppo, sia per quanto riguarda la produzione dei vostri dischi e del rapporto con le etichette, che prima avevamo iniziato parlando di dischi bervisti. Io aggiungerei anche, per quanto riguarda il laboratorio L'Isola, questo è un annuncio che va a tutti, anche ai genovesi, che c'è in corso un crowdfunding, o sbaglio, Luca? Sì, serve del cash, se no non si va avanti qua purtroppo, come tante altre bellissime cose. Ringraziamo. E allora, noi siamo sempre un po' fatti tutto da soli, insomma, perché non... Così bisognava fare, voglio dire, non è che per la musica che facciamo, per l'ambiente in cui siamo, se non ti fai le cose da solo, secondo me non le fai, semplicemente. E poi nel rapporto con l'etichetta, questa cosa è stata sviluppata durante gli anni, secondo me, tramite le coproduzioni, fondamentalmente, dal primo disco, che appunto con dischi previsti c'erano anche 8 etichettine che ci sono date tutte una mano per poterlo stampare, per poterlo far uscire, pubblicizzare un pochino, poterci farci girare un po', e quest'ultimo siamo più o meno uguali, perché siamo a 7 etichette, di cui una che è Show c'era già anche dal primo, di cui Moment of Collapse comunque fa le cose con noi dal 2015, ci ha fatto la ristampa del primo, quindi sì, diciamo che abbiamo cercato di essere dei rapporti con la realtà che ci piacevano, che erano interessate a supportare noi come noi eravamo interessati a supportare loro. E questa cosa alla fine ha dato i suoi frutti, perché è una dimensione diversa che avere probabilmente l'etichettona che dici, ti fa la mega pubblicità e ti sponsorizza le cose, tutte queste nicchiate qui, ma è più un discorso di arrivare magari veramente a man mano piccoli nuclei di persone che però magari si affezionano a te e tu ti affezioni a loro, quindi è intessere il tuo rapporto come tra, non lo so, band e pubblico in una maniera molto diversa, secondo me, perché poi vai ad avere a che fare con persone che conosci, veramente, tra virgolette, per quanto siano il tuo pubblico, no? E quindi hanno un interesse del tutto diverso rispetto a quello di magari un'etichetta più grossa o una realtà più grossa, per cui rimani una cosa magari più anonima e solamente o vendibile o non vendibile, ecco. E quindi sì, è un percorso sicuramente più lento, più complicato per molte cose, perché sì, appunto, voglio dire, non è che è un percorso da cui ricavi materialmente moltissimo, quanto più un sacco di soddisfazione personale, e però è un percorso che secondo me vale la pena fare, neanche come band, non lo so, i video se li fa Fra, il nostro amico Fra, che è un nome dell'Isola anche lui, e quindi è tutta una gestione un po', diciamo, familiare, ecco. Ed è bello che sia così, è bello. Comunitaria, infatti, c'è il valore della comunità, nel senso che ognuno, chissà, come poi si può riscontrare in alcuni collettivi. Avevamo parlato in due interviste fa con Tonino 3000 della Falafel Fest Famiglia, che salutiamo, era venuto fuori il discorso del collettivo come anche esigenza di supportarsi, autosupportarsi in alcune realtà, in quel caso anche provinciali, in cui il fatto di collaborare e coesistere è il lavoro, sicuramente è molto complesso, ma a livello umano, a livello di soddisfazione, molto profondo. Quindi capisco molto bene il discorso che dici. Molto bene. Se qualcun altro ha domande inerenti al do it yourself, se no manderei anche un brano. Posso dire la prossima, il prossimo step del do it yourself, come i Cococo, un gruppo citato, ma non solo. Non solo loro, appunto, dovete costruirvi gli strumenti da sé, da voi. Sarebbe molto bello, sì, dai, a me va bene, un microfono in qualche modo lo butti su, gli altri non lo so, e devo sbattere un po' di più. È vero. L'estremo DIY. Quindi io manderei Mantra. Vai. Questo era Mantra e ci stiamo avvicinando verso la conclusione di questa intervista. E prima di lasciarti alla domanda ormai di rito del nostro ammiraglio, ti volevamo chiedere, avevamo una domanda fatta dal nostro inviato Carnico, un inviato speciale, che ci chiede dalle retrovie, ti leggo il testo preciso, ti chiede: mi piacerebbe sapere il tuo punto di vista, se ce n'è uno, sulla scena noise hardcore giapponese, che qualcosa ha preso anche dall'hardcore italiano, e più nello specifico se hai qualche artista del sollevante che ti piace particolarmente. Devo dire che non sono bravissimo, non mi trovi proprio preparatissimo, e questa domanda dovresti rivolgerla più che altro al mio bassista, credo. Io conosco i classiconi dagli Embi e quella roba lì, che sono sempre stati molto apprezzati, Mac Banana ovviamente, quella roba già conosciuta, e non sono un grande esperto di scena giapponese, ecco. Sicuramente conosco Tokyo Jupiter, che è una bellissima realtà che si prodiga a portare artisti giapponesi in giro per l'Europa, e artisti europei e americani e da altre parti del mondo in giro in Giappone, e che è una cosa molto bella. Però su band nello specifico in questo momento non saprei bene dove andare a parare, mi trovi proprio un po' impreparato. Beh, era una domanda bella carnica questa, infatti. Molto scomoda la domanda. Molto se ci sta ascoltando il nostro inviato. Il Melt Banana voi avete condiviso, era l'anno, no, e al Krakatoa avete suonato allo stesso festival, può essere? Sì, era stato molto bello, era stato molto bello. E ti lasciamo allora adesso al domandone dell'ammiraglio. Allora Luca, ti volevo chiedere, per il futuro diciamo più prossimo, anche se per ora rimane per tutti un po' oscuro, hai magari delle idee, delle diciamo influenze particolari che ti vogliono spingere un po' a progettare qualcosa di nuovo? Hai qualcosa in ballo? Non so se ci vuoi raccontare qualcosa o se no. Noi continuiamo a provare a fare dei dischi, continuiamo a provare a fare dei tour quando ci riusciremo, potremo farlo di nuovo, e proviamo a sopravvivere in mezzo a queste due cose qui, che non è così facile come a dirsi, perché sembra tutto un bel casino, il caffè è tutto quanto insieme, però dai, ormai puntiamo su queste due cose qua, anche perché dopo tutto questo tempo farne a meno sarebbe un po' difficile, quindi continuiamo ad andare avanti un passettino alla volta, come sempre. Certo, comunque è una direzione basata sempre sul live, sul contatto con la gente. E darci una mossa, essere un po' meno lenti che in passato, che stiamo cercando di essere un po' più produttivi, tra virgolette, se di produttività si può chiamare, si può parlare, però noi lo facciamo, suoniamo e proviamo a continuare a farlo. Certo, vabbè. Dai, un bel tour in Giappone, io propongo. Sarebbe molto carino. Allora, io direi che abbiamo concluso. Se qualcun altro ha qualcosa da dire, lo dica adesso, tazza per sempre o fino alla prossima intervista. E niente, ci salutiamo. Allora, ci salutiamo con un brano consigliatoci da Luca. Lascia te l'onore, Luca, di dirci titolo e artista. E con questo ci salutiamo. I Jung Blood, di cui vi parlavo prima, che è una gran band che ha fatto dei grandi fatta. Perfetto, allora io saluto i radioascoltatori, i cyberascoltatori, l'equipaggio nelle proprie cabine di comando e soprattutto Luca e gli Stormo e anche il laboratorio L'Isola, mi raccomando, crowdfundate anche i genovesi. Ciao rega, ciao, grazie mille Luca.